può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini. Buongiorno a tutti voi ascoltatori di Si può fare, ben ritrovati per questa puntata in cui riflettiamo sul fare all'americana. Fare all'americana un po' ci viene in mente subito, no, un modo di fare un po' da spacconi, un po' in grande, un po' tutto grosso negli Stati Uniti. Perché ne parliamo? Ovviamente perché la settimana prossima dovremmo avere il nuovo o il rinnovo del presidente degli Stati Uniti, e allora è anche un buon momento per riflettere su quanto dagli Stati Uniti è arrivato in Italia, quanto abbiamo rielaborato quello che gli Stati Uniti ci hanno così portato, che va dal fast food al cinema, alla cultura, pure gli accordi geopolitici. Ma insomma, ecco, è un buon momento per riflettere quanto di alla americana abbiamo nella nostra vita. Il linguaggio, ad esempio, il linguaggio è una delle cose che ci rimproverate di più, noi che siamo davanti a un microfono: troppi americanismi, troppi termini che non si capiscono. Bene, anche di questo vogliamo parlare, e però iniziamo da quello che forse è il simbolo ed è il condizionamento più grosso che abbiamo avuto nel corso degli anni, e cioè iniziamo dal cinema. Dal cinema abbiamo appreso il modo di vivere degli americani, abbiamo appreso cosa mangiano, che abiti portano, che modelli culturali hanno, e abbiamo fatto propri questi insegnamenti, però li abbiamo anche un bel po' rielaborati, perché non c'è certo solo il cinema all'americana nella nostra vita, ma c'è anche il cinema italiano che dagli Stati Uniti ha preso magari qualche spunto e l'ha portato nella grande tradizione del cinema italiano, che sicuramente non è una tradizione seconda a nessuno. Da questo punto partiamo. Vi ricordo i nostri numeri: 800 24 0024 per le telefonate, 349 238 6666 per messaggi SMS e WhatsApp. E che dire, diamo il benvenuto al nostro primo ospite, che è il critico cinematografico e rettore dello IULM, il professor Gianni Canova. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, professore, io per esempio ricordo dei cineforum scolastici Easy Rider, quello veniva propinato sempre. Però, insomma, tanti film ci hanno condizionato nel corso degli anni. Pensiamo, veramente, tutta la nostra vita è stata accompagnata da film americani, però poi c'è anche quel passato. Perché dice condizionata? Perché è un po' coercitivo, non mi piace. Ah, lei non nel piace. Nel senso che allo stesso modo noi abbiamo condizionato il cinema americano, nel senso che Scorsese, per sua diretta ammissione, non esisterebbe se non avesse visto i film del neorealismo italiano, se non avesse amato Visconti, e faccio solo un esempio, insomma. Cioè, il rapporto è un po' più complesso rispetto agli stereotipi che spesso sa, io glielo dico da studente: quando vedevo questi film, poi uscivo fuori, mi andavo a comprare la camicia in quel modo, o mi comportavo in un certo modo. Quindi in quel senso è un condizionamento. Ma non c'è dubbio che il cinema abbia una potenza mitica sull'immaginario collettivo. Ma il cinema italiano l'ha anche raccontato, non dimentichiamoci, il tutto nasce col piano Marshall e col fatto che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dentro il piano di aiuti che gli Stati Uniti concedono all'Italia sconfitta, c'è anche una clausola che fa sì che tutti i film americani che erano stati bloccati durante la guerra, perché vi ricordo dal 43, 44, 45 non esce un film americano in Italia, neanche uno, escono tutti assieme, per cui per parecchi anni ci sono migliaia di film americani che entrano in Italia, con l'effetto che ha raccontato benissimo Alberto Sordi in Un americano a Roma. Che certo, ricordate? Come no, come dimenticarlo. Morricone, ragazzo di Trastevere, che però si comporta come se vivesse a Kansas City, quindi si veste come gli americani, mangia il chewing gum come gli americani, va a vedere il suo film americano e pretende addirittura di sostituire la dieta romana mediterranea con la dieta americana, in quella famosissima scena che ricorderete tutti. Tutto come noi l'abbiamo appreso tutto. E poi dopo a un certo punto rielaborato. Però a questo aggiungerei quella geniale riflessione di quel gigante che era Sergio Leone, il quale ovviamente ha fatto la sua filmografia è basata su un omaggio, una rivisitazione, una rilettura, una riscrittura dei grandi miti del cinema americano. Sergio Leone diceva: attenzione, l'America appartiene al mondo, non appartiene agli americani, gli americani l'hanno soltanto presa in affitto. Cioè, l'America come idea, come dire, di grande narrazione mitica, di grande narrazione corale, tant'è vero che uno dei più bei film sull'America è quello che ha fatto Sergio Leone, C'era una volta in America, e mentre il genere classico del cinema hollywoodiano, il western, stava esaurendosi, sembrava giunto al capolinea, Sergio Leone si inventa con Per un pugno di dollari e poi tutto quello che ne segue una rilettura europea coltissima italiana del western, che poi fa sì che il western rinasca anche in America. Questo per dire che i vasi comunicanti, i processi di osmosi sono molto più complessi spesso di quanto non ci dicono gli stereotipi. Questo sì, questo lo condivido. E lei, adesso vorrei chiedere a lei quale film, diciamo così, ricorda con più piacere, magari di quell'epoca di cui stiamo parlando, con Sergio Leone o con altri. E vorrei chiedere la stessa cosa però anche ai nostri ascoltatori, che possono scriverci. Lei, professore, a cosa è più affezionato? Del cinema americano, sì, o del cinema italiano? No, del cinema americano. Ma vedi, il cinema americano, spesso il grande cinema americano è fatto da europei, nel senso che Hitchcock era inglese, tutti i grandi della Hollywood classica, Billy Wilder, Fred Zinnemann, William Wyler, Ernest Lubitsch, Max Ophuls, sono tutti intellettuali europei scappati dall'Europa delle dittature e dei totalitarismi degli anni 30 e sono andati a inventarsi il grande cinema hollywoodiano. Quindi, come dire, se lei mi dice Billy Wilder o Alfred Hitchcock, io mi orgasmizzo immediatamente. ma sono dei grandi intellettuali europei che si mettono al servizio di quella straordinaria industria culturale sincretica, perché poi Hollywood, l'America è stata questa dal punto di vista cinematografico, la capacità di assorbire talenti, intelligenze, energie, creatività, idee, storie, racconti da qualunque parte del mondo venissero, senza nessuna preclusione di purezza o di senza nessuna, e quindi arrivavano quelli che scappavano dai regimi totalitari europei, bene, venite a Hollywood, arrivavano gli orientali, arrivavano gli australiani, arrivavano gli italiani, Hollywood è stato questo. Hollywood è stata anche diciamo la madre di un presidente, per esempio, degli Stati Uniti. Da noi questa, certo, cosa sarebbe stata quasi impossibile, specialmente a quell'epoca. Non voglio dire adesso che le cose sono un po' diverse, ma Ronald Reagan, insomma, veniva da quel mondo. Beh, noi abbiamo avuto Silvio Berlusconi, però, che veniva dal mondo della televisione. Che abbiamo anticipato Trump, noi. Abbiamo anticipato, sì, ok, condivido. Però ecco. per dire, ripeto, se noi andiamo a guardare anche adesso i processi di osmosi, non so, uno dei film italiani che più atteso, che stava per uscire, che è stato bloccato adesso purtroppo dalla chiusura dei cinema e dei teatri, era Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno, sequel di Non ci resta che il crimine, che è una rilettura italiana della trilogia di Zemeckis, Ritorno al futuro, con l'idea che il tempo sia percorribile a zig zag avanti e indietro. Quindi continuiamo a succhiare da lì, ma nello stesso tempo, se lei mi chiede quali sono i film americani più interessanti oggi, io le dico due titoli che sono i film più filosofici, più profondi, più complessi che ci siano in circolazione: Tenet di Christopher Nolan e sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman, che consiglio a tutti vivamente di vedere. Sono sfide per la mente con una complessità, come dire, intellettuale di cui spesso il cinema europeo non è più capace. Sì, tra l'altro io adesso non ricordo più dove avevo letto questo, ma sono sicura di aver letto che in qualche riunione del Partito Comunista all'epoca sovietica, quella proprio più dura, così si discusse di qualche film americano e la riflessione che venne fatta fu: solo una grande democrazia può permettersi una critica così forte dai suoi registi. È effettivamente l'industria del cinema americana capace di grande critica verso il suo establishment, come anche di grande osanna verso il suo establishment. C'è tutto e il contrario di tutto là. Questo, ma non, Hollywood non sarebbe stata il mito che è stata se non avesse saputo in ogni dettaglio costruire miti e antimiti, cioè, no, l'apologia dell'American way of life, ma anche la critica più spietata, più feroce, come diceva benissimo lei. Ma pensi ai modelli femminili. Allora, per una Marilyn che fa dire agli uomini alla sua apparizione ce l'avranno un estintore da queste parti perché è tutto sesso stampato sulla faccia, c'è una Doris Day che è tutta torte di mele, famiglia davanti al caminetto acceso, pranzo di Natale e mulino bianco all'americana. Cioè, e sono contemporanee, quindi il mito e il contromito, in modo da bilanciare sempre nell'immaginario collettivo delle pulsioni contrastanti che poi vanno a equilibrarsi. Professore, io la ringrazio davvero tanto per questo collegamento, per averci accompagnato in questa prima riflessione che facciamo sul si può fare alla americana. Grazie ancora, buon proseguimento. A voi e a tutti, buona domenica. Piccola pausa, viabilità tra poco e continuiamo con un altro mito americano, il fast food. Si può fare. Ed erano i prodigiosi anni 80 quando arrivava da noi prima il Burger King, poi arrivava McDonald's e poi sono arrivate un sacco di altre catene, ma insomma lo stile era sempre quello. All'inizio tutti a buttarsi a mangiare il panino dei film e poi tutti a pensare come rielaborare all'italiana il panino dei film. E sono arrivati negli anni 2000 poi i giovanissimi di Pescaria. Domingo Judicer, buongiorno. È co-founder, marketing Buongiorno. Director di Brainpool, fondatore di Pescaria. Pescaria, per chi ancora non ce l'ha in città, come la descriviamo? Beh, Pescaria è un modo nuovo di mangiare il pesce, crudo e cotto, è il fast food che abbiamo cofondato con Bartolo Labbate e Lucio Mele. Siamo tre professionalità provenienti davvero da tre campi totalmente distanti tra loro. Di fatto è un fish bar, se vogliamo ancora meglio, viste le dimensioni che ha raggiunto la dimensione media del locale, un fast food di pesce. Però il fatto appunto di dire fast food non vuol dire che non sia pesce di qualità, anzi poi la nostra storia insegna. E poi in realtà fast è solo che è veloce, che quindi non stai al ristorante attovagliato con tutti, no? Tutti gli orpelli, esatto, diciamo, di una esatto. cena di lusso, ma vai un pochino più veloce. Però non vuol dire che debba essere appunto di bassa qualità, quindi assolutamente. Anzi, e non vuol dire che non possa essere all'italiana. Esatto, infatti io come mio personale retaggio sono un consulente marketing, ho fatto una mia tesi in economia industriale che si chiamava il panzerotto, però era un piano marketing che cercava di il panzerotto? Il panzerotto, esattamente il panzerotto. Ma perché pulita. Uno fa una tesi sul panzerotto? Qual era lo scopo? Lo scopo era questo, cioè nella classifica mondiale dei fast food non ci sono imprese italiane, anche quando il prodotto è italiano come la pizza. Ora, questo settore in realtà nel mondo della ristorazione, uno è uno dei settori che per definizione cresce, perché cresce la popolazione nel mondo e deve mangiare, ma soprattutto è uno dei più profittevoli, che resiste anche nei momenti di crisi. Ora, in maniera piuttosto assurda, in tutta Italia sono sparsi tanti potenziali prodotti core in un'offerta fast food. Possiamo pensare ai vari panini che insomma sono nella tradizione italiana, alle polpette, ai rustici, agli arancini. Esiste una potenzialità fast food nella nostra cucina, ma qualcosa ci ha impedito di pensare in quella direzione. Da un lato probabilmente c'è un pregiudizio, forse pensare fast food significa pensare a qualcosa di non qualità. C'è da dire che con molta organizzazione e ingegnerizzazione gli americani sono poi riusciti a dare questo imprint, questo modello di servizio che è appunto il fast food, nel quale ci sono meno camerieri ma ci si può anche concentrare su un menù con pochi ingredienti, con operation molto scalate ma anche con un buonissimo rapporto qualità-prezzo. Noi lo facciamo col pesce crudo, quello, se vogliamo, un po' della tradizione pugliese, che poi viene anche, se vogliamo, scalata a livello globale per portata dei gusti. Abbiamo messo per primi, si può dire, forse il pesce crudo nei panini e abbiamo un po' arricchito il sapore del panino con latticini e verdure. Vengono consumati in una maniera assolutamente fast, si ordina in cassa e lo si riceve al tavolo. effettivamente abbiamo forse centrato un bisogno, no? Quello di consumare più spesso il pesce sì. di qualità in una maniera assolutamente tra l'altro in un periodo in cui proprio il tutta la catena che riguarda il pesce ha particolare bisogno, perché la situazione è un po' diversa rispetto alle carni o agli altri alimenti, quindi sicuramente avete dato questa risposta e l'avete data in una maniera simpatica, nuova, innovativa, tant'è che da lì siete passati poi a un'agenzia di comunicazione, quindi avete messo insieme insomma le esperienze per fare un passaggio ulteriore. Allora no, in realtà la storia è leggermente differente. Io nel 2012 ho cofondato un'agenzia di marketing, nel 2000... Quindi nasce l'uovo e la gallina, sono incontrati insomma. Esatto, io poi ho incontrato Bartolo che è appunto un commerciante ittico di lunghissimo corso che aveva già un'esperienza nel fornire dei semilavorati ittici ai migliori ristoranti di Puglia. Quando parlo di semilavorato ittico intendo banalmente anche un'ostrica già aperta o una porzione di filetto di tonno già pronta per essere tagliata a sashimi e servita, e ci siamo conosciuti per un rapporto professionale. Bartolo si è rivolto alla nostra agenzia. Alla fine parlando da cosa nasce lui, cosa? No, lui aveva voglia di aprire un ristorante e effettivamente poi da uno scambio di idee è nata l'idea per fast food di pesce. Terzo tassello è stato poi Lucio, quindi finalmente nel 2015 abbiamo dato vita a Pescaria. Quindi come dire, in realtà Brainpool, Pescheria Lo Scoglio e Lucio Mele sono un po' le tre anime fondanti lo spirito di Pescaria, che è partita a Polignano e un anno dopo poi con tanto coraggio, un po' di pazzia abbiamo aperto anche a Milano con una seconda sede, oggi siamo anche a Torino, Bologna e Roma. E quindi insomma le cose procedono e vanno avanti. Mi permetto di chiedere una cosa, Domingo Iudice, cinematografia americana, che cosa vi ha influenzato o niente vi ha influenzato nel corso? Siete molto più giovani di noi che siamo qua oggi ad ascoltarvi, quindi ci incuriosisce. Sicuramente credo la cinematografia americana, soprattutto quella degli anni 80 e 90, ma se vogliamo anche alcune recentissime produzioni Netflix ispirate a quelle decadi, sono davvero piene zeppe di quello che oggi impropriamente chiamiamo food retail, che è la ristorazione seriale o le insegne, i brand delle insegne della ristorazione, dal gelato all'hot dog all'hamburger. È chiaro che c'è il fascino di questo comfort food bello da vedere, goloso da mangiare, che è appagante e che è un po' uno strappo alla regola. Noi del food porn, come lo si definisce su Instagram, o dell'appetibilità fotografica, effettivamente ne abbiamo fatto anche un marchio di fabbrica, però abbiamo cercato di renderlo un po' italiano e di dargli, se vogliamo, quell'imprint o quel sottile fil rouge di chi poi ha anche, se vogliamo, l'heritage, la cultura enogastronomica italiana e pugliese. Quindi, come dire, piace anche a noi farlo in quel modo, ma abbiamo un DNA e abbiamo un terroir, se vogliamo definirlo così, con termine enogastronomico, che è effettivamente ci deve contraddistinguere, però non possiamo ignorare fare a meno di prendere spunto da questi miti che continuamente il cinema ci passa, anzi spesso. Ma voi avete pensato di fare il passo, diciamo, al di là della Manica o al di là dell'oceano, o è troppo presto per ora? Bisogna sempre sognare in grande, però poi bisogna pensare in piccolo, quindi se dicessi che non sogniamo starei dicendo una bugia. Ma di fatto, se volessimo farlo tutti insieme quest'oggi, staremmo facendo il passo che è più che più lungo della gamba e più corto dell'oceano, no? Quindi ma, ci sono i pesci che vi tirano su, visto che siete amici. Esatto. Va bene, allora vorrei dare spazio a un ascoltatore, Domingo Iudice, grazie molte, allora buon lavoro con, grazie a voi, buona con Pescaria e anche con Brainpool ovviamente. Massimo dalla provincia di Firenze, buongiorno, sul cinema, vero? Sì, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Buongiorno a voi. Allora, no, io come riferivo lì alla vostra redazione, ho detto che praticamente io sono un grande amante dei film che dal dopoguerra fino agli anni 70 poi diciamo che ci siamo fermati sia a livello specialmente a livello italiano ci siamo fermati dagli anni 70 in poi, gli anni 80 in poi, e poi si comincia con i cinepanettoni. Ma insomma, agli anni 70 ci fermiamo noi con il vero cinema italiano. Io reputo questo. Lei si ferma lì. Sì, reputo che i film americani hanno continuato poi a emettere grosse pellicole veramente stupende. Il cinema italiano, abbiamo avuto un Benigni che ha fatto La vita è bella, però insomma insomma molto... lei si è un po' così amareggiato dopo, ecco. Devo salutarla, Massimo, ma la ringrazio molto per la sua chiamata, perché adesso c'è GR24, torniamo subito dopo, continuiamo a parlare di questo tema, parliamo anche di questa neolingua all'americana, tra poco. Si può fare. Si può fare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, dei sordi peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu o fa l'americano. Spaghetto mai provocato e io ti distruggo. Te lo ricordi Marco Malvaldi? Assolutamente, assolutamente. D'altronde America e spaghetti sono un binomio inscindibile. Gli italiani sono una cosa quasi, quasi collaterale. Gli spaghetti con le meatball. Le meatball. Ma chi li aveva mangiati gli spaghetti con le meatball? Vabbè. E allora c'è qualcuno che ci rimprovera perché dice che insomma parliamo sempre di America, ma in realtà questi sono gli Stati Uniti e un torto a tutti gli altri. Lo so, però per noi è un po' pavloviano, quando diciamo America pensiamo agli Stati Uniti, neanche al Nord America, perché lì anche c'è il Canada, no? Quindi è così, però l'Italia è un po' così, per noi l'America è quella. E poi sappiamo, esatto, per conoscenza, che è quella, anche tutto, sì, il resto. Esatto, per noi l'America è esattamente quella lì. Io quando penso all'America penso alla scena di un film, tanto per tornare in tema, Apollo 13, quando gli ingegneri della base di controllo devono improvvisare un filtro per l'anidride carbonica, perché altrimenti gli astronauti che stanno rientrando moriranno intossicati dal loro stesso respiro. E allora il capo dell'equipe di tecnici scarica sul tavolo della sala riunioni tutta una carriolata di roba, un mucchio scombinato di oggetti, una tuta spaziale, barattoli, buste per le scorie, nastro adesivo, e poi dice: dobbiamo inventare il modo di mettere questo, un oggetto quadrato, nel buco fatto per questo, e indica un oggetto tondo usando solo questa roba. Ecco, secondo me l'America è questa, cioè non solo si può fare, ma abbiamo la consapevolezza di avere questi ingredienti sul tavolo, tutti e soli questi, e dobbiamo risolvere il problema con questi qua. Esattamente. Allora, 824 0024 nel caso voleste dire che cosa sono gli Stati Uniti per voi, là dove si vota la settimana prossima, e chissà se avremo un presidente poi, no? Perché poi dopo non è mica detto che quest'anno le cose siano chiare come di solito il 4 novembre. Questo è, sì, accettare la sarebbe realtà, la prima volta per noi vedere, sì, questo scontro. Sarebbe, sì, non mi azzardo nemmeno a parlarne, perché non è un qualcosa che apre scenari veramente imprevedibili. Meglio veramente concentrarci su quello che sappiamo, perché la cosa effettivamente terrorizza. Senti, per te che cos'è l'America? Cosa sono gli Stati Uniti personalmente? Sono un'ambizione, sono un desiderio, sono un luogo del viaggio, del cuore, oppure niente? Sono una filosofia, sono proprio quello. Il fatto è che gli Stati Uniti hanno un approccio filosofico alla vita che è quello più o meno di Luciano Floridi, cioè i problemi si risolvono non in base a quello che sappiamo, ma in base ai dati che abbiamo per risolvere il problema. Per dare un'idea di quanto siano potenti gli Stati Uniti, prima si parlava di spaghetti. Beh, uno dei piatti più importanti in questo momento della cucina italiana è un piatto americano, è la pasta alla carbonara. No, dai, adesso ci smitizzi, sì, la carbonara. Esattamente. No, no, non la smitizzo. Perché succede questo? Allora, innanzitutto le prove. La prima ricetta scritta della pasta alla carbonara viene da un ricettario americano, An Extraordinary Guide to What's Cooking on Chicago's Near North Side di Patricia Bronte. Prima non esiste la carbonara, perché la carbonara viene creata per festeggiare un incontro a settembre del 44 fra gli inglesi e gli americani, e il cuoco che viene chiamato a cucinare ha a disposizione gli ingredienti degli americani: l'uovo, la pancetta e poi gli spaghetti, che in Italia non mancano mai. Siamo a Riccione, vicino alla costiera romagnola, e quest'uomo, che si chiama Giovanni Gualandi, deve cucinare un piatto italiano avendo a disposizione pancetta, uova e spaghetti. Mm. E quindi quello che fa è metterli insieme. E fino agli anni 50 non compare in nessun posto la parola pasta alla carbonara in Italia. Vedi? Dobbiamo accettarlo così. È come la famosa zuppa alla pavese, di cui forse hai sentito parlare anche tu. Sì. Che nacque perché anche lì con quello che c'era a disposizione bisognava dare da mangiare a un re catturato, e quindi presero l'uovo, lo infilarono dentro il brodo e così venne fuori la zuppa alla pavese. Quello che hai lo fai fruttare, insomma, no? Quindi è lì il bello delle cose. Poi in realtà è anche il bello delle radici, che un po' ci sono e un po' non ci sono. Le radici le abbiamo mettendo insieme le cose che abbiamo in quel momento e le conoscenze che abbiamo per la nostra tradizione. E questo è la progressione, direi, mondiale. Esatto, probabilmente un cuoco americano di fronte a uova, spaghetti e pancetta avrebbe fatto un troiaio, invece un bolognese. O comunque una cosa diversa. Comunque una cosa diversa. Sicuramente. Avrebbe bollito ben bene quegli spaghetti, beh, per circa una mezz'ora, a partire dall'acqua fredda, per poi infilarci dentro. Certo. Un uovo sodo. Un uovo sodo. E con una crosta di bacon in padella. Bene, viabilità, ci ritroviamo subito dopo, perché una delle cose che sicuramente così ci hanno sempre affascinato sono i viaggi nello spazio, che più della NASA, ma anche della nostra ASI, hanno ben presente. Si può fare. Si può fare. Questa sera, questa sera, questa sera, non lo so, c'è qualcosa nell'aria stasera che non si può, non si può, non si può spiegare, a meno che non ritorni per forza a parlare ancora di te. E di cosa stiamo per parlare, come ci ha detto Vasco Rossi? Parliamo di Luna, ovviamente, Marco Malvaldi, in collegamento con noi, di spazio, Giorgio Saccoccia, ingegnere e presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Buongiorno intanto, benvenuto, ci fa molto piacere Buongiorno. Che ci abbia raggiunto. La Luna, che bel mito, non so lei com'era nella sua così carriera, come la vedeva? La vedeva come un'ambizione o come leopardianamente? Com'era? Romanticamente? In entrambi i modi. Sono nato fin da bambino, avevo questo sogno della Luna. Da un punto di vista tecnico, veramente da bambino guardavo l'idea seguivo i primi allunaggi e pensavo chissà un giorno magari potrò anch'io lavorare in questo settore, e contemporaneamente, istintivamente, ho sempre guardato alla Luna con un occhio romantico. Penso che sia inevitabile. Ma una cosa io mi chiedo, da ascoltatore ignorante, uno potrebbe farsi questa domanda: ma oggi nel 2020 che siamo arrivati sulla Luna, a che cosa serve andare su Marte, andare nello spazio, proprio in maniera brutale, per quale motivo continuiamo a farlo? Continuiamo a farlo perché, prima di tutto, perché è nella natura dell'essere umano quella di esplorare, lo è sempre stato, lo continuiamo a fare per sempre finché esistiamo. E poi una cosa molto più, magari meno ovvia, meno evidente, è che tutta l'innovazione tecnologica, tutto ciò che facciamo è legato alle imprese spaziali, ha una ricaduta enorme nella tecnologia di tutti i giorni, quella che utilizziamo a terra, e poi in particolare i servizi spaziali, e qui parlo specificamente di delle applicazioni dell'infrastruttura spaziale attorno alla Terra, servono nella vita di tutti i giorni per una quantità enorme di applicazioni, di servizi, di infrastrutture che utilizziamo per le cose più disparate, per la meteorologia, per lo studio dell'evoluzione climatica, l'inquinamento, per fare agricoltura intelligente, la navigazione, quindi tutti gli strumenti che ci permettono di utilizzare appunto la navigazione dei veicoli, tutto ciò che una gran parte di quello che abbiamo nel nostro smartphone passa attraverso applicazioni spaziali. Quindi se improvvisamente, per qualunque motivo, per disgrazia, venissero a mancare i servizi spaziali, ci torneremmo indietro in maniera clamorosa. Io sa che cosa, proprio pensando a questo, nel corso dell'estate ho comprato una mappa di vecchio stile, no? Proprio di quelle che si usavano un tempo per l'escursionismo, e ho insegnato alle mie bambine a leggerla, perché mi sono detto, qui non la sanno più leggere, non sanno più leggere le mappe, le cartine delle città, tutti col Google Maps, però poi se il Google Maps non ti porta in cima alla montagna, te non sai leggere una mappa. No, ottima cosa, perché non bisogna mai dimenticare cosa c'è alla base di anche delle innovazioni tecnologiche più importanti. Senta, noi abbiamo letto, Marco, scusa, adesso porto il presidente dell'ASI sul tema della missione Artemis, di cui abbiamo letto nel corso della settimana, e l'Italia partecipa a questa missione che intende portare di nuovo l'essere umano sulla Luna, ed è il primo paese europeo a chiudere l'intesa con la NASA. Quali sono i nostri punti di forza? Allora, l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che, grazie a un avviamento di decenni, lavora un po', siamo capaci di operare un po' in tutti i settori delle applicazioni spaziali. In particolare, per quanto riguarda l'esplorazione, il volo umano, lavoriamo da 40 anni in questo settore. Abbiamo sviluppato delle capacità tecnologiche che sono sicuramente uniche, ci rendono un paese leader. In particolare parlo di, per esempio, i cosiddetti moduli pressurizzati, cioè le abitazioni in orbita dove gli astronauti si trovano a operare, a lavorare, a fare i loro esperimenti, a dormire, a vivere. Domani la Stazione Spaziale Internazionale in orbita terrestre è un anniversario importante, sono 20 anni che è abitata praticamente. Gli astronauti sulla stazione spaziale vivono in moduli, la maggior parte di questi moduli sono stati prodotti dall'industria italiana, grazie a una capacità sviluppata, ripeto, in anni e anni di attento sviluppo e crescita tecnologica. Adesso, logicamente, l'idea è quella di fare il passo successivo, e cioè mettere a frutto questa capacità insieme ad altre, perché non facciamo solo questo in questo settore, allontanandoci dall'orbita terrestre e quindi partecipando in maniera importante e significativa a questo ritorno alla Luna per restarci, che è stato proposto dagli americani nel programma Artemis. Quindi per restarci, bisognerà portare anche qualcosa da mangiare e da bere. Certo, bisogna portare da mangiare e da bere, bisogna pensare non solo a portarci dietro le risorse, ma a riuscire pian piano a trovare risorse in loco. Parlo della superficie lunare. Il programma Artemis è fatto di due elementi principali: una stazione orbitante lunare attorno alla Luna, quello che si chiama Gateway, e poi pian piano ci saranno le infrastrutture di superficie. L'Italia vuole contribuire, grazie alla nostra adesione al programma Artemis, vuole contribuire quantomeno a alla costruzione di elementi abitabili sia sulla superficie lunare che attorno in orbita attorno alla Luna e eventualmente anche per i moduli di discesa sulla Luna e poi di ritorno. E poi pensiamo anche di contribuire con altri temi dove siamo molto forti, tipo le telecomunicazioni tra la Terra e la Luna, tutta una serie di capacità per fare esperimenti sulla superficie e così via. Quindi ci teniamo a essere un paese dei più importanti nella collaborazione di questo programma internazionale che sicuramente sarà una sfida, ma ci permetterà anche di fare dei salti tecnologici in avanti veramente significativi, che poi, come dicevo prima, avranno ricadute nella vita di tutti i giorni sulla Terra. Certo, beh, come quando la Formula 1 poi ha delle ricadute sulle nostre automobili in strada, no? È sempre un po' così. In un momento come questo, e parliamo di emergenze sanitarie, eccetera, il fatto di permettere a degli astronauti che si troveranno a essere sempre più isolati rispetto a delle condizioni di infrastrutture importanti di supporto sanitario, poter riuscire a essere curati, seguiti a distanza, tutto questo ha una. Proviamo a immaginare come immediatamente sarebbe ed è applicabile a una situazione come questa, dove magari bisogna isolare dei pazienti che però hanno bisogno di essere seguiti, non solo per quell'emergenza specifica, ma anche per altre cose. E questi sono temi che noi sui quali stiamo lavorando, abbiamo lavorato in questi mesi proprio durante l'emergenza Covid, per fare appunto supporto di telemedicina utilizzando proprio le tecnologie legate allo spazio, tanto per darle un esempio di ricadute, e questo grazie all'esplorazione spaziale avrà sicuramente un boost importante. Sicuramente. Senta, le volevo chiedere, visto che noi anche in maniera un po' giocosa stiamo parlando questa settimana del fare all'americana e fare all'italiana, in questo tipo di collaborazioni com'è la collaborazione, mi scusi il gioco di parole, tra voi e la NASA? No, guardi, lo spazio è una cosa bellissima perché è un settore dove veramente la diplomazia viene messa a frutto in tutti i modi. Cioè noi, l'ASI, l'amministrazione spaziale italiana, collabora con la NASA, sì, ma collaboriamo con almeno un'altra trentina di altri paesi, condizioni culturali, di sviluppo tecnologico le più disparate, quindi un po' con tutti bisogna adattarsi e offrire quello che noi sappiamo fare, ma cercando di parlare la lingua degli altri. Ripeto, noi parliamo spesso di space diplomacy proprio perché lo spazio, essendo un'attività multidisciplinare che richiede risorse e capacità tecnologiche molto, molto diverse, molto, molto allargate, è uno di quei settori dove naturalmente si guarda alle altre culture, alle altre nazioni e si impara presto a saper collaborare con gli altri, e quindi ognuno offre un qualcosa che magari è originale, legato proprio alla propria, al proprio modo di essere. Con gli americani siamo abbastanza vicini, ma se le dico cosa può essere magari collaborare invece, non so, con i giapponesi, che sono il nostro, a livello culturale sono proprio al nostro opposto. Noi siamo gli individualisti per eccellenza con gli americani, i giapponesi è un popolo collettivo, è molto interessante partecipare a progetti comuni e arrivare a comuni risultati. Allora, Marco, non so se tu hai domande ancora, se no curiosità ce ne sono ovviamente sempre, non ti sento in questo momento. No, più che altro volevo sapere questo, perché è curioso che noi italiani siamo sempre associati appunto al mangiare, al bere, al buon vivere, invece si sta parlando di una diciamo, disciplina che richiede una precisione e una capacità di ricerca veramente avanzatissima, per cui potrebbe far sorridere il fatto che sia proprio l'Italia la prima ad aver firmato con gli Stati Uniti un accordo per una missione spaziale, perché anche noi a livello di ricerca e di produzione tecnologica avanzata, lei mi conferma, siamo insomma all'avanguardia da questo punto di vista. Assolutamente, assolutamente lo siamo e ne siamo orgogliosi. E ripeto, come dicevo prima, ovviamente in un settore come quello spaziale è difficile esserlo in tutti i settori, in tutti gli aspetti tecnologici. Ogni nazione poi diventa eccellente in determinate parti, insomma, del contributo globale a un progetto importante come può essere quello di Artemis. però una conoscenza di base sistemistica completa deve esserci, e questa non ce l'hanno tante nazioni, l'Italia sì. Allora, noi, Marco, avevi un'ultima domanda, te la posso concedere prima della pausa? No, no, che abbiamo? Ci siamo, mi sembra, avevo solo voglia di sottolineare quello che è stato detto, nessun'altra domanda, vostro onore. Va bene, allora, a me tocca sempre la parte della maestrina, sa Presidente? Allora, la ringrazio davvero tanto, Giorgio Saccoccia, Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Allora, in bocca al lupo, non so come si dice nello spazio, cosa vi dite quando vi augurate, tipo in bocca al lupo? Che la luna sia con noi. Che la luna sia con voi. Dillo alla luna, va bene. Esatto. Grazie ancora. Alla prossima occasione, buon lavoro. Si può fare. Fare. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing vita bella. E allora, quanto è bello a volte sentire l'italiano storpiato, quante altre volte ci dà un po' fastidio, quanto è strano l'italiano infarcito di termini inglesi. Non so, Marco Malvaldi, tu ne usi, ne fai uso? Io cerco di tenermi alla larga, ma non è sempre facile. No, no, io assolutamente, madamigella, io mi attengo a un uso della lingua italiana scrupolosamente scevro da anglicismi di qualsivoglia natura. Ah sì, eh? E quindi tu non fai le call, per esempio, no? No, no, no, no, io tu faccio le conversazioni telematiche, no, no, assolutamente, io uso un acquisitore di dati analogici. Ah sì, ah, sì. Lo dici così quando ti dicono mandami il contratto e tu dici sì, adesso con l'acquisitore di dati te lo mando via lettera elettronica. Il contratto viene rescisso, non capisco perché, ma si cioè, vede più che altro non te lo propongono più. Esattamente. E poi usi il topolino, non usi il mouse ovviamente, un po' come la spagnola, il ratón. Assolutamente, uso anche l'elaboratore elettronico e tutte queste cose qui, e quindi per questo mi sta appunto creando delle grosse difficoltà, perché per completare una frase che agli altri ci vuole 30 secondi io ci metto un mese e mezzo. E oltretutto non ti capiscono, perché esattamente non ti capiscono. Allora, Giuseppe Antonelli è professore ordinario di linguistica italiana presso l'Università di Pavia. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Non so, lei come io so che lei non è del tutto così, non si oppone all'uso di certe così anglicismi, ecco. Ma diciamo, nonostante lei non sia stato promotore del Museo della Lingua Italiana. Sì. Quindi io è ovviamente l'amante della lingua italiana, vista da ogni punto di vista, nel senso anche proprio che mi dà da mangiare, visto che il mio lavoro è studiare e insegnare la lingua italiana, la amo, ma credo che non sia un atteggiamento al passo con i tempi e soprattutto un atteggiamento alla luce della storia, quella di rifiutare in blocco tutte le parole che vengono da altre lingue. Nel corso dei secoli ci sono sempre stati scambi di parole tra le lingue, l'italiano ha dato e ha ricevuto e tendenzialmente si è arricchito, c'è stata un'ondata di spagnolini tra 5 e 600, c'è stato tantissimo francese tra il 700 e la prima metà del 900, lei pensi che ancora i dizionari puristi d'età fascista se la prendevano soprattutto con le parole francesi, perché quelle inglesi erano poche, e poi dal secondo dopoguerra c'è stato l'inglese. L'importante è che questo rimanga chiaramente in uno scambio fisiologico, ma la notizia è questa, lo scambio è fisiologico, perché se prendiamo un qualunque dizionario di questi che vengono aggiornati ogni anno, come lo Zingarelli o il De Votoli, sono rimasti due a fare aggiornamenti annuali, le parole inglesi, cioè quelle che si riconoscono proprio come straniere, sono il 3%. Non mi sembra che si possa parlare di italiano o italiese o chissà cosa. Ecco, io quindi lei ci sta dicendo che praticamente è una cosa più percepita che reale, questa invasione barbarica dell'inglese e di tutte queste... Sì, Malvaldi, io parlo proprio di temperatura percepita, nel senso che noi abbiamo un po' questa tendenza a enfatizzare alcuni fenomeni, no? È come durante l'estate i giornali dicono questo è il record del picco delle temperature, mai quando ancora picco si poteva dire, delle temperature mai raggiunte durante l'estate in Italia, e uno dice ma come, sono 35 gradi, no, però con l'umidità la temperatura percepita è stata di 42, e qui è uguale, è un po' l'uso mediatico, cioè bisognerebbe farsi un esame di coscienza noi che abbiamo l'opportunità di parlare in pubblico e di dare un modello di lingua, perché se sentiamo i giornalisti, i politici, se sentiamo la televisione, c'è questo effetto di grande condensazione di parole inglesi, ma sono un po' sempre quelle che si ripetono. Ovviamente se teniamo da parte sì, la tecnologia, l'informatica, non è un caso che tutti gli esempi che facevate voi scherzando venivano più o meno da lì, dall'informatica e dalla tecnologia. Allora io devo dire a chi scrive al 349-238-6666 di scrivere, non di mandare degli audio, perché in questo momento non li possiamo sentire, e vorrei invece la mia osservazione rispetto al tema, al di là del fatto che i giornalisti sono sempre colpevoli e quindi ci prendiamo la colpa di tutto, ma infatti comunicatori in generale. Io faccio lo scrittore, anch'io sono colpevole, anche tu sei colpevole, però sì, tu sei colpevole in maniera diversa, perché quello che io contesto è la mania di pronunciarli all'inglese, non del fatto che noi prendiamo un termine e lo rielaboriamo. Mi dà fastidio quella esibizione di io lo so l'inglese, perché a quel punto vorrei sentir dire i nomi francesi altrettanto bene, i nomi spagnoli altrettanto bene, per non parlare del giapponese, del cinese, di altre lingue. Esattamente, quelli dei calciatori polacchi che militano nel nostro campionato. Allora, se uno prende il nome e lo rielabora, come abbiamo sentito prima il signore da Firenze che diceva i filmi, è buffo, suona buffo, però è come sì, tu no, assorbi sì, un termine e lo fai tuo. No, è vero, questo in realtà noi però lo facciamo abitualmente, non solo nella pronuncia senza neanche rendercene conto, perché poi nessuno di noi dice poma per dire bomber, dico per dire, no? Chiaramente è un adattamento istintivo, ma lo facciamo molto spesso calando queste parole nel nostro sistema grammaticale. Per cui, quindi, quando diciamo formattare, per esempio, abbiamo trasformato una parola come format, che anche per la consonante finale, insomma, si vede che è una parola straniera, in una parola perfettamente italiana, perché è un verbo della prima coniugazione. Se abbiamo il coraggio di andare fino in fondo, una volta davanti a una palestra di un cartello c'era scritto beggiare prima di entrare, e beggiare era scritto secondo la grafia italiana. Beh, quello è un modo, è il modo per rendere italiane le parole straniere, è il modo in cui per secoli è successo. Intendo dire, nessuno oggi si lamenterebbe dell'invadenza dell'inglese dicendo basta con questa bistecca. Sì. Eppure bistecca è beefsteak. Per cui il punto è quello, se riusciamo a rendere le parole italiane, dire che la questione è risolta una volta per tutte. Beh sì, in effetti noi abbiamo la melanzana, che dovrebbe essere la corruzione di mela insana, cioè di frutto che fa impazzire, no? E dovrebbe essere quella l'origine. Ma molte di queste parole derivano da tante altre lingue, voglio dire, molti frutti e verdure dall'arabo, per esempio, come l'arancia passando attraverso lo spagnolo, come il carciofo, per cui nessuno si lamenta che queste siano parole straniere. Il punto è che le parole inglesi, e in generale oggi le parole straniere, ci arrivano soprattutto per via scritta e quindi tendono a mantenere un loro aspetto straniero. E per cui lockdown, continuiamo a dirlo, lockdown e a scriverlo all'inglese. Però teniamo anche conto che, per esempio, lockdown è una, alla fine, delle poche parole di questo bruttissimo periodo, di questa bruttissima pandemia, che davvero si stanno affermando e rimarranno. Perché all'inizio, per esempio, si leggeva droplet, oggi quasi tutti dicono goccioline, spillover, dal titolo di quel libro ai noi profetico, è diventato salto di specie, cioè c'è una tendenza poi all'adattamento. Lockdown è rimasta così e forse non è neanche del tutto strano, perché indica una cosa veramente che non c'era mai stata, per fortuna, speriamo che non ci sarà mai, e significa solo quello. A volte la parola straniera, venendo da fuori, non porta con sé altri significati. Quando si è parlato di coprifuoco, molti hanno detto ma no, non lo usiamo questa parola perché ricorda la guerra. Ecco, la parola lockdown da noi non ricordava niente, segnava proprio l'eccezionalità, sottolineo in senso negativo, di questa situazione che avevamo vissuto e che speriamo di non dover rivivere. Però in altri tempi, senza la parola scritta, noi il lockdown l'avremmo assimilato diversamente. Forse anche lo scritto ci travia. È questo, è questo. questo oggi passa tutto per via scritta e quindi non c'è quell'adattamento naturale che è quello di filmi, per capirci, ma filmi ci fa ridere, ripeto, formattare in realtà no. Lockdown chissà come sarebbe stato adattato in lockdown o qualcosa del genere. Sì, forse sì. Il lockdown. Solo che oggi questo suona ridicolo, suona provinciale, ovviamente non è una strada utilizzabile. C'è qualcuno comunque che coglie l'occasione per contestare lo pneumatico, perché quello è italiano ma disturba tutti in maniera incredibile, professore. Lo pneumatico. Lo pneumatico, ma non è possibile. Quella è la regola dell'articolo, poi è chiaro c'è sempre l'uso che insidia e che pian piano modifica le regole, per cui si legge sempre di più i pneumatici, il pneumatico, non è detto che pian piano questa cosa non diventi una regola accettata, è sempre stata così la storia, da una parte ci sono le norme, dall'altra c'è l'uso che rinnova queste norme, queste regole, e altrimenti per dire... Altrimenti parleremo ancora al latino, sai? La prima persona dell'imperfetto in A, secondo la grammatica per quella era l'etimologia, io aveva, io andava, io faceva. Poi a un certo punto tra i primi Manzoni decide che invece no, questa cosa non ha senso perché nell'uso fiorentino si diceva io avevo, io andavo, io facevo, e oggi sarebbe ridicolo il contrario. Ecco, mi ricorda un po' questa cosa, da studente di chimica, lo sgomento di quando scopri che dell'esistenza del molibdeno, con questo BD che in Italia è praticamente sconosciuta, per cui diventa quasi sempre moblideno e il professore si arrabbia come una tinca. È un fonetica... spontaneo, di tipo fonetico, mettiamola così. Esatto. È che la nostra lingua di italiani non è abituata a certe acrobazie. Quindi... Esattamente, quindi adegua i suoni. Ma prima citavo Manzoni, mi piacerebbe citare anche un brano di Leopardi su questo aspetto che secondo me è illuminante, perché Leopardi nello Zibaldone, questa straordinaria raccolta di appunti che in realtà è un serbatoio straordinario di idee e di riflessioni, scriveva il 18 aprile 1822: rinunziare o sbandire una parola nuova, una sua nuova significazione, per forestiera o barbara che la sia, quando la nostra lingua non abbia l'equivalente o non l'abbia così precisa, non è altro e non può essere meno che rinunziare o sbandire e trattare da barbara illecita una nuova idea e un nuovo concetto dello spirito umano. Quindi l'apertura alle parole straniere come un'apertura mentale a nuove idee, a nuovi stimoli, e quindi dobbiamo capire che c'è una forma di arricchimento. Poi certo, se c'è la parola equivalente italiana non ha nessun senso utilizzare quella straniera, ma anche lì stiamo attenti che molte sono parole che sono diventate italiane. Sì, però alcune volte va invece assimilata. Adesso io, con tutto il rispetto, però a me il raton mi fa tanto ridere per dire il mouse. Poi dopo lo so che in Spagna lo usano e va bene così, non mi ricordo come dicono i francesi, che anche loro hanno... Le souris. Però ecco, se noi lo assimiliamo, lo digeriamo e poi dopo ci consente di parlare con tutto il mondo, questo mouse forse meglio. Ma il punto è quando succede questo. Infatti adesso c'è un gruppo che è stato creato dall'Accademia della Crusca che si chiama Incipit, perché bisogna intervenire all'inizio, cioè quando la parola è appena arrivata, e cercare un corrispondente che possa essere spendibile. Se noi fin dall'inizio avessimo detto topo, topolino per mouse, probabilmente non ci suonerebbe strano. Pensiamo una cosa, l'unico ambito dell'informatica che è perfettamente italianizzato è quello della posta elettronica, perché lì c'era già il modello della posta tradizionale, per cui se vi ricordate all'inizio i sistemi di posta elettronica mettevano reply invece che rispondi, sì, per esempio, forward invece che inoltre. Poi siccome lì c'è allegato attachment, lì si è pian piano affermata tutta la terminologia italiana, perché questo si chiama transfer terminologico, è stata adeguata alla nuova tecnologia ma sempre rimanendo nella terminologia della posta, esattamente come da, che ne so, porto si è passati ad aeroporto, no? Stesso meccanismo. E quindi quando c'è un modello, quando c'è una possibilità, l'italiano si afferma, e quando arriva una cosa completamente nuova o gli si dà subito un nome italiano, ripeto, spendibile e credibile, o fatalmente per noi quella cosa si associa a una parola straniera. A una parola. Professore, dobbiamo fare una puntata intera o un podcast di tipo 2 ore su questo argomento, perché c'è veramente una quantità di osservazioni e richieste incredibile sugli anglicismi e comunque tutte le parole straniere che sono arrivate in italiano, perché non ci sono solo quelle che arrivano dall'inglese. Per ora ci dobbiamo salutare e la ringraziamo tantissimo, Giuseppe. Grazie Antonelli, professore ordinario di linguistica italiana presso l'Università di Pavia. La viabilità e poi la musica. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a touch of repossessed my car. Don't push me. E questo è l'inizio di The Message di Grandmaster Flash and the Furious Five, 1982, la prima canzone rap a sollevare la questione sociale, razziale. Il rap è sicuramente la musica che negli ultimi anni ha caratterizzato gli Stati Uniti, quello che arrivava dagli Stati Uniti, il ghetto, e poi è stata largamente imitata anche in tutto il resto del mondo, ciascuno con le sue coloriture, all'inizio copiature, poi coloriture. Di questo parliamo con Paola Zucar, la signora del rap italiano, manager tra gli altri di Fabri Fibra, autrice di Rap, una storia italiana. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa prima canzone cosa le ha evocato, questa prima canzone rap? Questa è la vera prima canzone rap di protesta, perché in realtà il rap è nato per far festa, in realtà. Quindi tutte le prime canzoni. Non sembrerebbe. Sì, ma è stato così. È stato così. Poi hanno visto che l'utilizzo della parola era talmente potente e andava a coprire un vuoto di messaggi, appunto, per citare il titolo della canzone che avete appena passato, e si prestava benissimo a raccontare delle realtà che nessuno raccontava. E in questo caso, per prego Marco, poi dopo. No, è proprio questo, perché la canzone The Message dice: "Don't push me because I'm close to the edge", non spingermi perché sono vicino al limite, quindi è un malessere. E in Italia quale malessere diventa, diciamo, quello che si esprime attraverso il rap? È infatti una delle critiche che spesso è stato mosso al rap italiano, è quello: vabbè, ma non abbiamo i ghetti, non vi sparate addosso. Ma non è che il malessere è rappresentato solo dalla violenza delle armi o dai ghetti o dal fatto di avere delle minoranze etniche, ma è anche data moltissimo, per esempio la nostra provincia ha sfornato dei talenti incredibili, no? Per cui la nostra tranquilla e sopita provincia in realtà nasconde delle realtà che, appunto, di nuovo nessuno racconta e che i rapper sono venuti a raccontare in una maniera anche brutale, se vogliamo, ma inedita. Fabri Fibra di Senigallia, Salmo e di Olbia, molti rapper sono di provincia, raccontano molto bene il loro disagio, ecco. In Italia il rap, quindi, lei dice, ha seguito ovviamente la sua via, e che coloritura ha preso rispetto a quella americana? Che lo differenzia? Beh, molto spesso in realtà ancora scimmiotta alle volte, no? Non è una musica autoctona, è imprestata. Ci sono momenti in cui assume un'identità radicata più nostra, e anche se dobbiamo riconoscere che, appunto, è una musica afroamericana, nasce da lì e gli stilemi devono anche un po' rimanere quelli, altrimenti diventa anche un'altra cosa. Credo che siano i testi ad avere la connotazione più forte italiana, naturalmente sembra una cosa ovvia, ma no, perché ci sono anche artisti che in realtà traducono, o nemmeno, per riprendere il discorso che facevate interessantissimo col professore di prima, riprendono gli stessi identici cliché quasi per loro, perché non li vivono. Perché non li vivono e sono, utilizzano addirittura lo slang afroamericano pur non vivendo quel tipo di realtà lì. diciamo che è una connotazione tipica dei ragazzi più giovani che si approcciano alla musica magari a 16, 17, 18 anni e quindi si sentono, ecco, di imitare quel tipo di vita per poi viverne un'altra e raccontare la loro. Ecco, Zucker, io ho sempre detto che io sogno il giorno in cui una band hard rock italiana inizierà a cantare in latino, perché quello sarebbe veramente, secondo me, un modo notevole di rompere. Questo per chiederle, lei cosa aspetta? Cioè, lei, voglio dire, di talenti ne ha scoperti parecchi. Cos'è, secondo lei, che in questo momento manca al rap, all'hip hop italiano? Lei cosa, come si aspetta che sia il nuovo, diciamo, rapper italiano? Guardi, le dico, in realtà l'ho finalmente, dopo anni e anni di attesa, l'ho trovato. Sono le ragazze, mancavano moltissimo le voci delle donne nel rap italiano, ma perché non era maturo il momento, non era matura l'Italia. D'altronde il rap è solo un riflesso della nostra vita sociale, politica, e ha bisogno di maturare, di crescere. Ultimamente stanno arrivando alla ribalta molte ragazze, anche molto giovani, che finalmente utilizzano il rap per esprimersi profondamente, per davvero lanciare un messaggio inedito e originale. Ecco, quello che auspico è che rimanga sempre, che qualunque artista si approcci al rap porti una sua identità e non una scoppiattatura. Può starci all'inizio per fare palestra, ma poi necessariamente anche per sopravvivere occorre A me un po' a volte ha spaventato o allontanato l'aggressività che viene dimostrata da alcuni artisti. Questo è tutto, diciamo, teatro o c'è della realtà no? Di questa quasi cattiveria anche nei testi che si leggono, negli atteggiamenti? Ma più che altro noi non siamo mai stati abituati ad avere aggressività nella musica italiana, molto poco rispetto all'estero, dove il punk, il metal, il death metal sono realtà consolidate. L'Italia si è sempre appoggiata alla musica che fa sognare, che delle cose brutte. Anche la televisione, tutta la cultura italiana è improntata più che altro al popolare, bello. Al bello, a vedere il bello, il che ovviamente è giusto, ma bisogna, ecco, un po' per uno imbraccia la mamma, come si dice, un po' per uno deve essercene, anche il, diciamo, racconto manca un po' il Caravaggio che faccia il pellegrino coi piedi sporchi, ecco, dobbiamo mischiare queste due cose. È un'immagine davvero poetica, ma sì, decisamente, anche perché il linguaggio brutale che utilizzano parecchi artisti rap, comunque alle volte si è forzato e allora è fastidioso in tutti i sensi, perché è un richiamo di attenzione dove forse c'è troppo poco d'altro, ma in realtà è qualcosa di inedito, appunto, che racconta delle situazioni con una musica che in Italia non era mai stata ascoltata. Anche il punk, che ha avuto brillanti artisti italiani, però è sempre rimasto abbastanza una sottocultura. Il rap oggi è mainstream e tante persone ancora non riescono a capacitarsi di poter ascoltare delle parole così forti. Del resto, sa cosa, adesso ci abbiamo alla chiusura, la cosa che avevo sentito, che nelle statistiche, insomma, i bambini italiani imparano come primo aggettivo bello, e quindi chiaro che tutto ciò che è diverso ci stupisce, ci lascia un po' annichiliti. Paola Zucker, la ringraziamo davvero tanto, ricordo autrice tra l'altro di Rap, una storia italiana, buona giornata, buona domenica. Grazie mille, grazie a voi, buon proseguimento. Marco Malvaldi, noi ci separiamo, ci ritroviamo domenica prossima. Vedremo con il nuovo presidente o meno degli Stati Uniti. A questo punto è tutta un'attesa. Non posso esprimermi, ma lo farei volentieri. E ce lo dirai la settimana prossima. Tanto non voti, puoi dire quello che vuoi. Gli artisti stranieri si esprimono liberamente. Benissimo, allora speriamo con il nuovo presidente degli Stati Uniti, dai. In redazione, come sempre, Edoardo Lavezzari, Michele Michelazzo l'autore. In assistenza oggi c'era Marco Lombardo. In regia Gianmarco Ferronato. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.